notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il Senato parte civile nel processo sulla compravendita dei parlamentari, nuovo scontro sulla decisione del presidente, Forza Italia ed NCD all'attacco, Grasso si difende, nessuna persecuzione. Renzi sulle riforme parla proprio del Senato, l'ipotesi è 150 membri, 24 dalla società civile. Squinzi a Letta il 19 febbraio, quando verrà in Confindustria ci dia risposte, dice a Mix24. Se non lo farà ci appelleremo al Presidente della Repubblica. Non sono un disfattista ma un realista, dice. Oggi Consiglio dei Ministri. Letta dice abbiamo stanziato 250 milioni di incentivi per l'assunzione di laureati e ricercatori. L'evasione di Gallarate, ci sono 4 fermi, sarebbero tutti componenti del comando che ha consentito la fuga di Domenico Cutri. Capannoni in fiamme alla periferia di Firenze, ospitavano laboratori di pelletteria gestiti da cinesi, crollato un muro, l'incendio sarebbe doloso. A palti e tangenti all'Agenzia Spaziale Italiana, perquisizioni nella sede, 7 persone sotto inchiesta, tra cui il presidente, tutto sarebbe partito dalle rivelazioni di un dirigente della stessa agenzia. Oggi si riunisce il direttivo della Banca Centrale Europea. Alcuni analisti ipotizzano un nuovo taglio dei tassi di 15 punti base. Bene i mercati, Milano guadagna oltre un punto percentuale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, notizie che se volete potete commentare, come sempre al 349-238-6666 oppure sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno. Iniziamo dalla politica e dallo scontro al Senato. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ho difeso la dignità del Senato, così Piero Grasso spiega perché ha deciso di far costituire Palazzo Madame come parte civile nel processo per la compravendita dei senatori nei confronti di Silvio Berlusconi. Ho deciso da solo, dice Grasso, sono e sarò super partes. Il presidente del Senato chiarisce in aula e risponde così alle critiche del centrodestra: non sono un vigliacco, pertanto ho deciso di venire qui in aula per ascoltare quanto c'era da dire su questo tema. Ma è subito bagarre, dai banchi di Forza Italia si alzano urla e fischi e poi il gruppo abbandona l'aula gridando vergogna e fischiando Grasso. PD, SEL e Movimento 5 Stelle invece sono con il presidente che ha fatto il suo dovere. Altro capitolo si apre invece, Simone, qui alla Camera con il decreto svuota carceri. Il voto finale è atteso tra poco, mentre questa mattina audizione dei deputati 5 Stelle dopo i disordini nell'aula della Camera per il decreto IMU Banca Italia. Il presidente Laura Boldrini assicura la ghigliottina non si ripeterà. 44 i parlamentari da ascoltare, 35 del Movimento 5 Stelle, anche però il questore Stefano D'Ambrosio di Scelta Civica, autore dello schiaffo alla deputata Loredana Lupo, a contestare questa audizione Alessandro Di Battista 5 Stelle, non riconosco il maxi processo Boldrini. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito, intanto oggi si riunisce la direzione del Partito Democratico, sentiamo. Dopo quella della legge elettorale, Matteo Renzi accelera ancora sulle riforme. Non basta più accarezzare i problemi, il tempo è finito, ha avvertito stamattina il segretario democratico, annunciando che nella riunione di oggi pomeriggio la direzione del PD presenterà una sua proposta per la trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie, una riforma sulla quale c'è l'accordo delle principali forze politiche, ha detto Renzi. Immaginiamo un Senato non elettivo, senza indennità, che abbia 150 persone che siedono, 108 sindaci dei comuni capoluogo, 21 presidenti di regione, sapete che c'è il tema del Trentino e dell'Alto Adige, quindi 20 più 1, e 21 esponenti della società civile temporaneamente non a vita individuati dal Presidente della Repubblica. Tema centrale nella direzione democratica, alla quale parteciperà anche il Premier Letta, sarà anche quello del rilancio dell'azione di governo. Dalla maggioranza si moltiplicano le richieste di una verifica, ma si continua anche a parlare di una staffetta a Palazzo Chigi fra Renzi e Letta, ipotesi stoppata però dal Presidente della Repubblica Napolitano, che è rientrato da Strasburgo. Ieri ha chiamato Letta per ribadire il suo apprezzamento per la continuità e per i nuovi sviluppi dell'azione di governo, sia sul piano interno sia su quello internazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, ieri il Presidente del Consiglio e quello di Confindustria si sono incontrati per alcuni chiarimenti. Letta sarà presente al direttivo di Confindustria del 19 febbraio, ha annunciato Squinzi, intervistato da Giovanni Minoli questa mattina a Mix24. Sentiamo. Ha preso impegni? Sì, ha preso l'impegno di tornare da noi il 19 di febbraio, si è offerto di venire a visitarci in consiglio direttivo di Confindustria, ma viene portando delle soluzioni, e alcune già fatte e alcune avviate. Ma, Presidente, cerchiamo di essere chiari, se il 19 viene con la bisaccia vuota, che cosa capita? Sarebbe un grosso problema. A quel punto credo che non ci resterebbe altro che appellarci al Presidente della Repubblica. Ma il Presidente della Repubblica cosa può fare? O scioglie le Camere o fa un nuovo governo? Ma io credo che il Presidente della Repubblica, nella sua grande saggezza, che personalmente ho già avuto occasione di sperimentare più volte, prenderà le decisioni giuste. Ma voi avete detto, se non c'è la bisaccia piena, elezioni, quindi insomma una delle due cose il Presidente dovrà farla. Lei si affida. Sì, mi affido. E molte altre dichiarazioni del presidente di Confindustria Squinzi nel faccia a faccia di questa mattina con Giovanni Minoli le trovate sul nostro sito www.radio24.it. E chissà se già per una risposta a Squinzi oggi il Consiglio dei Ministri ha stanziato dei soldi per alcune assunzioni. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Una riunione lampo per approvare due provvedimenti che dovrebbero garantire l'uno più ricerca e innovazione nelle imprese, l'altro più diritti ai consumatori. In particolare si stanziano 250 milioni di euro per il 2014 per chi assume ricercatori e laureati in azienda. Ad illustrare il provvedimento è stato lo stesso Premier Letta poco fa in conferenza stampa. Sentiamo. È un piano finanziato sia da fondi comunitari sia da fondi nazionali, con il quale vogliamo dare un input molto forte, una spinta molto forte a tutto ciò che porta più ricerca nell'attività di impresa, più innovazione nell'attività di impresa. E poi, come si diceva, via libera al decreto che attua una direttiva comunitaria sui consumatori, ci saranno più garanzie in particolare negli acquisti online e si stabilisce ad esempio di inserire informazioni chiare e dettagliate in favore del consumatore al momento del pagamento, viene esclusa la possibilità di imporre tariffe discriminatorie qualora non si usi il contante. Non si è parlato invece in questo Consiglio dei Ministri né di Consob né di INPS, ha precisato Letta. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Veniamo all'indagine scattata questa mattina a Roma e che coinvolge i vertici dell'Agenzia Spaziale Italiana. Monica Ceravolo. Buongiorno, tangenti in cambio di contratti, un'inchiesta della Procura di Roma, come avete già detto, tira in ballo il presidente dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, Enrico Saggese, che è in carica dal 2009. Con lui sono indagate altre sei persone, tra cui due suoi stretti collaboratori, Francesca e Mario Giacomo Sette, già dipendenti di Finmeccanica distaccati presso l'ASI. Nei loro confronti vengono ipotizzati a vario titolo i reati di concussione e corruzione. Al centro dell'attenzione i contratti chiusi con alcune società, la Sistina Travel, che organizza viaggi all'estero per i dipendenti ASI, il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, che ha sede a Capua, la Getit e l'Aerofiera in provincia di Torino, e poi la Artwork e la Space Engineering di Roma. Ed è proprio dalla capitale, dalla sede dell'ASI, che sono partite le perquisizioni anche negli uffici, ma pure nelle abitazioni degli indagati. Gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza cercano documenti per ricostruire i contratti sospettati di essere frutto di corruzione. L'indagine, che è affidata al PM Paolo Ielo, è partita dalla denuncia di un dirigente dell'ASI che sarebbe stato oggetto di un tentativo di concussione. È tutto. Grazie Monica, torneremo ad aggiornarvi su tutto questo, così come c'è un'altra vicenda in evoluzione alla periferia di Firenze, un incendio che ha coinvolto alcuni capannoni che ospitavano laboratori cinesi. Ubaldo Cianciulli è là. Ubaldo, buongiorno. Simone, di nuovo buongiorno. La situazione qui allo Smannore è ancora critica. La ditta Import-Export Jolly di borse e valigie è andata distrutta. I vigili del fuoco dei comandi di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa stanno lavorando alacremente dalle 3 di stanotte e ci hanno detto che ci vorranno altri 3-4 giorni per mettere in sicurezza la struttura, circa 1800 metri quadri, e poter entrare per escludere ufficialmente la presenza di vittime. Il proprietario della ditta Cheng Guo Liang, cinese di 44 anni, residente a Campi Bisenzio, ha ricevuto dai carabinieri del comando di Peretola una denuncia contro ignoti per incendio doloso, e questo conferma la presenza di contenitori di liquido infiammabile ritrovati stanotte. L'inchiesta è condotta dal pubblico ministero Giulio Monferini e poco fa Giulio Vannicelli, funzionario dei Vigili del Fuoco, ha escluso, per quel poco che ha potuto vedere nel fumo denso della ditta andata distrutta, che nella ditta stessa ci fosse un dormitorio, per cui si spera che effettivamente non ci siano vittime e all'interno che potrebbero essere ritrovate quando i vigili del fuoco tra qualche giorno riusciranno, una volta messa in sicurezza la struttura che sta collassando, il tetto è crollato ed è sorretto dal solaio, quindi è una situazione molto pericolosa. Vediamo nelle prossime ore evolversi. Per il momento da Firenze, dallo Smannoro è tutto, linea allo studio. Grazie a Ubaldo Cianciulli, restiamo sulla cronaca perché c'è una svolta nelle indagini sull'evasione di lunedì scorso a Gallarate, nel Varesotto. Sono stati fermati i presunti autori dell'assalto e i basisti. Sono state fermate e trasferite nel carcere di Busto Arsizio le tre persone interrogate nella notte nella caserma dei carabinieri di Gallarate in relazione all'assalto al furgone della polizia penitenziaria organizzato lunedì scorso per far evadere Domenico Cutri. I tre, tutti pregiudicati, residenti nella zona dell'Interland milanese tra Inveruno e Magenta, dove vive la famiglia dell'evaso, avrebbero fatto parte del commando che ha compiuto l'assalto, gregari e basisti della fuga dunque. Respingono le accuse, a loro carico però sarebbero stati raccolti gravi elementi di colpevolezza emersi anche da intercettazioni telefoniche ambientali. Una quarta persona si è appreso in seguito è stata fermata a Napoli, un pregiudicato di origini napoletane che da tempo abitava nel milanese. Nei giorni scorsi erano stati ascoltati dagli inquirenti i familiari dell'ergastolano omicida, in particolare la madre Maria Antonietta Lantone, che aveva incitato il figlio a fuggire e a non farsi catturare per non rendere vana la morte del fratello Antonino, rimasto ucciso nel conflitto a fuoco davanti al tribunale di Gallarate. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'economia con una notizia innanzitutto arrivata un attimo fa: la Banca d'Inghilterra ha lasciato i tassi di riferimento invariati allo 0,50%, nessuna variazione neanche sul piano di riacquisto di bond, confermato a 375 miliardi di sterline, ma l'attesa è tutta per la riunione della Banca Centrale Europea di oggi. Alcuni ipotizzano un nuovo taglio dei tassi, ne chiediamo conto ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. L'Eurotower ha aperto pochi minuti fa le porte ai giornalisti. Alle 13.45 c'era l'annuncio sui tassi di interesse. I mercati sono divisi sia sulla possibilità che la BCE tagli i tassi, presa com'è fra un'inflazione che resta molto bassa, troppo bassa rispetto al suo obiettivo, e qualche segnale di modesta ripresa dell'economia e anche di normalizzazione delle tensioni sui mercati monetari. Poi alle 14.30 ci sarà la conferenza stampa di Draghi. Le sue parole, come sempre, sono molto attese dai mercati, lo saranno ancora di più se la BCE dovesse decidere di non agire sui tassi, quindi ormai l'incertezza dura poco, fra mezz'ora circa sapremo cosa avrà fatto la BCE. E torneremo a collegarci con te più avanti nel corso di Effetto Giorno, proprio quando avremo la decisione della Banca Centrale Europea. Prosegue intanto il nostro viaggio tra i rallentamenti dei paesi che potremmo definire ex emergenti e che stanno spaventando, hanno spaventato i mercati. Oggi andiamo in Brasile. Il Brasile dei record, quello dell'ex presidente Lula e poi di Dilma Rousseff, l'attuale leader, ha inanellato risultati strepitosi. Eccoli. Il paese si è modernizzato, strade, autostrade, ferrovie, aeroporti. Negli ultimi 10 anni è aumentato il reddito pro capite. 40 milioni di poveri sono entrati a pieno titolo nella categoria di consumatori. E infine sono state effettuate riforme importanti. E tra pochi mesi, in giugno, il Brasile ospiterà i campionati del mondo di calcio. Una grande occasione per mostrare al mondo i progressi raggiunti. Eppure permangono delle fragilità che preoccupano i mercati e gli operatori economici. La mina vagante argentina, con il pericolo di una crisi esplosiva, potrebbe contagiare la prima economia latinoamericana, il gigante Brasile. Le corde sensibili del Brasile sono queste: un'inflazione più alta di quella dichiarata dalle statistiche ufficiali e la crescita. Dopo che il PIL è corso al 7-7,5% per molti anni, nel 2013 si è attestato solo al 2,3%. Infine, le proteste sociali per le spese folli dei campionati del mondo di calcio minacciano la stabilità del paese. Roberto Darin, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Il Senato parte civile nel processo sulla compravendita dei parlamentari, nuovo scontro sulla decisione del presidente Grasso che si difende, nessuna persecuzione. Renzi sulle riforme intanto parla proprio del Senato, l'ipotesi 150 membri, 24 dalla società civile. Squinzi a Letta il 19 febbraio, quando verrà in Confindustria ci dia risposte, se non lo farà ci appelleremo al Presidente della Repubblica, così appunto il leader degli industriali intervenuto a Mix 24. Evasione di Gallarate, ci sono 4 fermi, sarebbero tutti componenti del comando che ha consentito la fuga di Domenico Cutri. Capannoni in fiamme alla periferia di Firenze, ospitavano laboratori di pelletteria gestiti da cinesi, al momento da quel che si sa non ci sarebbero vittime. E torniamo alla politica, saluto Maurizio Sacconi, capogruppo del Nuovo Centrodestra al Senato, benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Il presidente Grasso si deve dimettere, Sacconi? Certamente non ha più quella caratteristica di terzietà che dovrebbe essere implicita nella funzione di Presidente del Senato. Egli ha compiuto una scelta tutta politica, non vi sono ragioni formali che possano sostenere la costituzione di parte civile che non ha precedente alcuno. Si tratta poi di un procedimento nel quale si pensa di scrivere la storia nei tribunali, e gli ho ricordato episodi della cronaca politica come la formazione del governo D'Alema, quando molti parlamentari furono in qualche modo reclutati per una operazione molto particolare in quel momento, quella di costituire il governo D'Alema alla vigilia della guerra del Kosovo. Ho ricordato la vicenda strana delle elezioni del 2006 proprio in Campania, quando i dati Mi scusi, però la domanda era abbastanza diretta, cioè secondo lei, venendo meno questo ruolo di terzietà, si deve dimettere Grasso oppure no? Questa è una scelta che deve compiere lui, spetta solo a lui. Il regolamento non dà possibilità diverse. Lei al suo posto si dimetterebbe? Io credo che al suo posto non avrei fatto la scelta che ha compiuto, quella di scegliere la costituzione di parte civile. Ma quello che vale è poi l'atteggiamento del Partito Democratico, che mi sembra che alla prima prova da sforzo non sia riuscito ad andare oltre il giustizialismo di questi anni. Dice Grasso, l'Aula se vuole può revocare la decisione, e se nel caso questo non avvenisse, Sacconi? Ripeto, è sempre e solo in base innanzitutto al regolamento, ma in base anche ad un elementare ragionamento sulla coscienza. È un problema suo quello di valutare il fatto che ha spaccato l'Aula a metà. Mi scusi, a questo punto però rigiro la domanda iniziale che le ho fatto: sarebbero opportune le dimissioni del presidente Grasso? Io le ho già risposto, grazie. Senta una cosa, però a me interessava dal punto di vista politico, cioè se verrà tutto rimesso all'Aula e l'Aula non revocherà la decisione e si formasse a questo punto evidentemente una maggioranza su questo tra PD e Movimento 5 Stelle, che cosa fareste? Guardi, noi non abbiamo mai avuto illusioni sul Partito Democratico. Non siamo tra coloro che, come qualcuno in Forza Italia nei giorni scorsi ha fatto, ha pensato che Matteo Renzi rappresentasse una discontinuità e che il Partito Democratico avesse finalmente scoperto lo Stato di diritto. Non ci siamo mai fatti questa illusione. Abbiamo pensato e continuiamo a pensare che sia necessaria una maggioranza anomala per condurre l'Italia in condizioni più solide al voto, evitando quindi una crisi di Repubblica e non soltanto di legislatura. Questo è il nodo politico, il nodo politico che rimane. Come ho detto, il giudizio che alla fine ho tratto da questa giornata è che il Partito Democratico è quello che abbiamo conosciuto in questi anni. Alla prima prova da sforzo non resiste alla tentazione della via giudiziaria. Grazie a Maurizio Sacconi, capogruppo del Nuovo Centrodestra al Senato, e buona giornata. E io saluto Antonio Marfella, tossicologo e oncologo dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale di Napoli e referente di Medici per l'Ambiente. Stiamo parlando di Terra dei Fuochi. Buongiorno Marfella. Buongiorno, buongiorno, grazie. Eccoci qua, è stato già ospite altre volte di Effetto Giorno. Oggi lo abbiamo chiamato perché è stato approvato ieri, come saprete, il decreto sulla terra dei fuochi, e prevede tra l'altro uno screening sulla popolazione, proprio per capire i danni che tutti questi rifiuti, anche tossici, sepolti dalla camorra per decenni in quel triangolo terribile che va sotto il nome di terra dei fuochi, partirà appunto questo screening per verificare gli effetti sulla popolazione. Le voglio chiedere molto seccamente, Marfella, come si può svolgere uno screening di questo genere, cioè operativamente come ci si dovrebbe muovere? Operativamente ancora non è stato deciso tra gli organismi competenti del Ministero e della Regione. In realtà io esprimo innanzitutto il ringraziamento al Governo e in particolare al Ministro dell'Ambiente, che ha voluto in prima persona avere questo atteggiamento interventista. E ugualmente siamo preoccupati, esattamente come il Presidente della Regione Caldoro, perché ci vengono dati 50 milioni una tantum per andare a studiare meglio se ci sono più problemi di tumori in Campania, ma ce ne vengono sottratti 400 strutturali per motivi, diciamo, di adeguamento della spesa ai costi standard. Allora, il primo punto da chiarire è che io sono nella perfetta linea del mio presidente di regione e anche della Lega, cioè o io ho un problema sanitario reale più degli altri, come risulta a mio parere dai nostri studi, dalle nostre posizioni, dal dato oggettivo della peggiore aspettativa di vita d'Italia alla nascita, e quindi noi abbiamo diritto a dei fondi strutturali, oppure rischiamo, aumentando gli screening, di avere più scoperte di più ammalati, ma di non avere entro due anni i soldi per curarli. Questo è il primo messaggio. E c'è un secondo messaggio che voleva mandare, dunque? Il secondo messaggio è che, dato che la legge non esplicita i tipi di screening, ma lascia alle commissioni congiunte tra Ministero e Regione il tipo di esami da fare, noi non vediamo ancora un chiaro indirizzo per esami mirati per scoprire il nesso di causalità, anche e soprattutto perché continuano a mancare in queste commissioni la presenza di tecnici terzi e indipendenti come noi medici dell'ambiente, a titolo del tutto gratuito, che possano confrontarsi se per esempio è prioritario analizzare la diossina nei pompieri che spengono i roghi, o se è necessario analizzare la diossina nei cassetti che bruciano nei cassonetti. Mi scusi Marfella, mi aiuti a capire, e molto brevemente, perché insomma siamo quasi in chiusura di questa parte. Quindi in queste commissioni che devono valutare il tipo di screening da fare non sono previsti tecnici indipendenti, cioè c'è solamente la regione? Che risulta a noi, no, noi non siamo coinvolti, né risulta che lo siano altri tecnici indipendenti. E quindi è una roba solo istituzionale, o ci sono dentro dei tecnici, cioè c'è gente che ne capisce oppure no? La legge sì, è una questione istituzionale che viene limitata tra i competenti esperti del Ministero e della Regione Campania. Probabilmente perché si parte dalla concezione, come sta scritto nella legge, che c'è un problema di allarme sociale e non di danno sanitario reale. Ho capito. Grazie Marfella, e questa è una roba che vorremmo approfondire e che segnaleremo. Grazie Marfella e buona giornata, torneremo ad ospitarla anche altre volte, perché su questo tema, come sapete, ci siamo. Adesso ci prendiamo un momento, se volete, di alleggerimento, però parliamo anche di politica. La musica è questa, devo dire, insomma, non sono un critico musicale, però non è un granché. Però al di là di questo, quello che dovreste vedere è il video. È un video che è stato girato all'interno della sede del comune di Nichelino. e ha suscitato un discreto livello di proteste anche da parte di deputate del Partito Democratico che se la sono prese col sindaco. Perché? Perché in questo video, insomma, non è, questo video non è esattamente castigato, ecco, per così dire. Allora, saluto il sindaco Giuseppe Catizzone, che è sindaco di Nichelino, buongiorno, del Partito Democratico. Buongiorno a tutti voi. Ma come le è venuto in mente di far girare un video così nella sede del comune, tra l'altro con un video nel quale questa ragazza in minigonna seduce un finto sindaco, che non è lei naturalmente nella parte, però è un attore, come le è venuto in mente? Ma molto semplice, anzitutto è un videoclip, non è un video hot come è stato erroneamente definito, è un videoclip fatto da alcuni filmmaker della mia città che hanno analizzato che cosa? La cattiva politica, un video satirico, cercare satirico sulla cattiva politica. Sono venuti da me, insomma, dal sindaco della loro città, e così come facciamo sempre con Film Commission, con tutte le persone che vogliono girare film su Nichelino, a Nichelino, abbiamo dato la massima disponibilità. Sono ragazzi molto bravi, hanno fatto questo video e poi si è scatenato il putiferio. Senta, ma lei l'ha visto prima che lo mettessero su YouTube, certo, prima che lo caricassero? Sì, non reputo che il video sia offensivo. Il video tratteggia sindaci molto Catizzone, sono un po' bacchettone le sue colleghe del Partito Democratico. No, che ma dice. Non è questione. Vabbè, le deputate credo che oggi dovrebbero, insomma, occuparsi un po' di altri problemi. Ecco, io ho dato la disponibilità del mio ufficio quando era chiuso a dei giovani che hanno voluto girare un film, un videoclip, non pensavano a questo clamore, quindi io ringrazio le deputate per aver dato questo video la notorietà. Pensate che in un giorno ha ricevuto 100.000 visite, quindi non è poco, perché si è costruito tutto su un equivoco: c'è un video hot girato dal sindaco, no, diciamo c'è un videoclip musicale con scene, non c'è una scena di nudo, non c'è una scena di sesso, non c'è una scena satirica. Si prendono in giro tre tipi di sindaci: il primo col grosso sigarone, questo sindaco fa l'occhiolino a una ragazza che va a parlare con lui, che poi a sua volta diventa sindaco e che a sua volta viene ricattato dal vecchio volpone che prende il posto del sindaco, quindi forse un po' una metafora della politica di oggi, i vecchi volponi che tengono assoggettato un paese, sia i giovani che insomma, ecco, poi di questo si tratta. Un video, ripeto, bello brutto, ecco, io se non entro nel merito, ma ritengo che le case, che le istituzioni debbano lavorare seriamente quando c'è da lavorare seriamente, ma debbano anche essere al servizio. Il mio comune è la casa dei cittadini, dei miei cittadini volevano girare, non avevano fondi, non hanno nulla, e credo che questo gli abbia dato una mano ad avere una notorietà. Però ce lo dica, un po' di bacchettonismo lo vede girare lei? Ma guardi, si è scatenata un meccanismo un po' tutto italiano, no? Sono partite alcune donne che hanno, pensate, io invito davvero tutti a vederlo, no? Hanno scomodato la convenzione di Istanbul sulle donne. Cioè, come se qui ci si trattasse di donne velate oppure siamo in un paese dove vige la sharia. No, non è questo il punto. Le donne non vengono, la DJ è una donna, la protagonista è una donna, viene anzi, se volete, attaccata, ridicolizzata la figura dell'uomo. Allora, sindaco, io la ringrazio. Purtroppo non ho più spazio, perché se no mi ammazzano i colleghi della borsa, che probabilmente sono già in attesa al telefono per il collegamento. Buona giornata al sindaco Giuseppe Catizzone. Pausa e tra poco la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. C'è stata una valanga in Val d'Aosta, sono almeno 4 le persone coinvolte, 2 persone sono state estratte vive dalla neve, mentre delle altre 2 sono ancora in corso le ricerche, aggiornamenti appena ne avremo. Proteste da Forza Italia e da NCD per il Senato parte civile nel processo sulla compravendita dei parlamentari. Grasso si difende, nessuna persecuzione, e dice l'Aula può cambiare questa decisione. Squinzi, intervenuto a Mix 24, si rivolge a Letta, fa sapere che il 19 febbraio, quando verrà in Confindustria, vuole avere risposte. Se non lo farà, ci appelleremo al Presidente della Repubblica. L'evasione di Gallarate, ci sono 4 fermi, sarebbero tutti componenti del comando che ha consentito la fuga di Domenico Cutri. La borsa. Borse in diretta. Tra poco torneremo con Alessandro Merli appena avremo la decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Intanto Isabella Tasso, Radio Cora, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Intanto le borse sembrano crederci. Sì, sì, le borse sembrano crederci, i listini sono tutti orientati al rialzo, gli analisti non escludono un mini ritocco al ribasso dei tassi già da questa riunione della Banca Centrale o al più tardi a marzo, questo anche alla luce della nuova discesa dell'inflazione nell'Eurozona. Milano vanta la performance migliore fra gli indici europei, fa più 1,4% ed è sostenuta dai comparti delle banche e del lusso. Banche, come dicevi, Monte dei Paschi quasi 4 punti percentuali di guadagno, bene Azimut più 4,41, Intesa San Paolo più 2,65, Obibanca più 2,28, Mediobanca più 1,98%, la Popolare Emilia Romagna più 1,65. Tra i titoli da segnalare, Isabella? Tra i titoli da segnalare anche quelli del lusso, come dicevamo, ci sono acquisti su tutto il comparto dopo la recente debolezza. Tod's fa più 2,9% ed è premiata dagli analisti di Goldman Sachs che migliorano il giudizio anche alla luce della recente debolezza del titolo che ha perso il 18% dall'inizio dell'anno. Fa bene anche Ferragamo più 2,5%, Luxottica più 2%, Jux sale solo di un modesto 0,2%, questo all'indomani della diffusione dei dati sulle vendite 2013, salite meno delle attese. Grazie ad Isabella Tasso e come sempre ai colleghi di Radio Cora, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Abbiamo parlato molto di maltempo in questi giorni e degli effetti soprattutto del maltempo sullo stato del territorio italiano. Ebbene, oggi viene presentata una grande inchiesta multimediale con praticamente tutti i soggetti coinvolti. C'è l'ANCE, che è l'associazione dei costruttori, ci sono gli architetti, i geologi, c'è Legambiente. Si chiama Dissesto Italia, che è anche un hashtag su Twitter, tra l'altro così, tutto attaccato, Dissesto Italia. I dati dal 2002 ad oggi si sono verificati quasi 2000 episodi di dissesto e il 2013 ha fatto registrare un triste primato con 351 eventi tra frane e alluvioni. Antonio Gennari, direttore generale dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Allora, come innanzitutto ci racconti molto semplicemente come nasce l'iniziativa, perché secondo me anche questo è interessante, cioè il fatto che tutti i soggetti, dagli industriali a un'associazione ambientalista, insieme ad architetti e geologi, si mettano insieme e facciano una cosa di questo genere è interessante. Beh, questo nasce da un'iniziativa che facemmo un anno fa, proprio presentando un rapporto sul dissesto idrogeologico. E ci siamo messi insieme, quindi associazione costruttori, architetti, geologi, Legambiente, per cercare di aumentare la sensibilità, ma soprattutto cercare insieme delle risposte. Questa videoinchiesta è durata 3 mesi, fatta dai giornalisti, hanno intervistato e sono andati lì sui luoghi dove sono successe i dissesti e anche le tragedie, purtroppo anche di questo. I giorni. Il problema è che risposta dare. Noi cerchiamo di trovare il consenso per delle risposte concrete. Ci sono stanziati con autorizzazione di cassa 1,6 miliardi di risorse che devono essere spese e non riescono a essere spese. Oggi il presidente Buzzetti ha fatto un appello per dire troviamo le soluzioni in tempi brevi, molto concrete. La presidenza del Consiglio, i ministri, oggi qui c'è il ministro Orlando, cerchiamo di trovare regioni, comuni, enti locali per trovare una strada per utilizzare queste risorse. Uno dei problemi naturalmente è il patto di stabilità interna che limita l'utilizzo degli investimenti, ma quello che serve è la volontà di mettere insieme le energie, superare la frammentazione delle competenze, anche il rimbalzo di competenze tra Stato e Regione. Ci deve essere una forte regia statale, l'utilizzo di queste risorse con progetti che servono a risanare il territorio. Grazie ad Antonio Gennari, direttore generale dell'ANCE, per essere stato con noi. La saluto e noi andiamo adesso a Sochi, dove il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha usato parole dure a poche ore dall'inizio delle Olimpiadi.

Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed eccoci, prima di chiudere, le decisioni della Banca Centrale Europea, quali sono state? Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, eccoci. Sì, Draghi ci ha abituato alle sorprese, ma non è stato il caso questa volta. I tassi sono rimasti invariati, sia quelli sui finanziamenti alle banche, sia quelli sui depositi delle banche presso la BCE, quindi nulla di fatto. Adesso si tratta di vedere se Draghi annuncerà qualcos'altro in conferenza stampa, comincerà esattamente fra 35 minuti, potrebbe in effetti introdurre misure sulla liquidità, ma a questo punto non è affatto certo, non resta che aspettare. Fra 35 minuti Mario Draghi da Francoforte. Grazie Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Naturalmente torneremo ad aggiornarvi anche sulle parole di Draghi. Un'ultima notizia prima di chiudere, è stata appena battuta dalle agenzie. L'Aula della Camera ha dato il via libera al decreto legge cosiddetto svuota carceri. Il testo approvato a Montecitorio con 296 sì, 183 no e 2 astenuti passa dunque al Senato. Si chiude qua Effetto Giorno. Un ringraziamento a Paolo Corleoni in regia, Laura Fagin in assistenza in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Vi ricordo i nostri contatti, la nostra pagina Facebook innanzitutto, www.facebook.com/effettogiorno. Se volete mi trovate anche su Twitter, Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio subito dopo la pubblicità e poi di nuovo con Effetto Giorno domani alle 13.